Provo più emozione per l'hip hop che per le persone. Almeno non ottengo delusione. Giusto. Basta ampliare la concentrazione su come rimare su un mare di confusione. Metti giù quel coltello, non ti aiuterà. Ti cenni con un fratello che sei già si impiccherà. Appendi il cappello al solito posto, rubato al solito tordo. Ti senti tosto solo perché fotti sempre il posto. Considerando che sei solo ormai dall'anno scorso, perché sei troppo stronzo. Non senti manco il rimorso, quanta differenza. Non ti penti, sei un vigliacco nel percorso di demenza. Spero che mi senti, ti sto insegnando. Non che ti spaventi, non sto scherzando. Roma che ti inventi, se stai rappando, meglio che la smetti, sempre un gallo. Non vi accontentate mai, cercate sempre guai, pretendete sempre oro, ed arriva sempre merda. Vi lamentate di coloro che hanno vita stupenda. La differenza è che loro non hanno bocca orrenda. Troie, quante volte dite false storie, volete sempre gioie sperando morte. Verso chi ha aperto mille porte, con la buona sorte e non con le gambe aperte. Perché voi vedete tutti come scorte, vite siamo risorte da una relazione forte. Siete come la droga che rovina e che costa, tengo alta questa prosa come il prete fa con l'ostia. Divento una iena quando dite siamo dritto. Mi fate pena perché non conoscete manco un capetto. Riuscite a malapena pulirvi culetto da soli. Sparite forse meglio andate a letto, state buoni. Spero che mi senti, ti sto insegnando. Non che ti spaventi, non sto scherzando. Roma che ti inventi, se stai rappando, meglio che la smetti, sempre un gallo. Non vi accontentate mai, cercate sempre guai, pretendete sempre oro e vi arriva sempre merda. Vi lamentate di coloro che hanno vita stupenda. La differenza è che loro non hanno bocca orrenda. Chiusa una porta ti si apre un tombino. Chi ti usa come scorta è ancora un bambino. Non importa quanto è corta questa strada, ma tu ricorda che chi ti sopporta ti aggrada. La vita è troppo corta per rompere i coglioni. Non è finita ma ascolta, non rottere gli ormoni. Tu dipinta su una porta, sulla porta del cesso. Perché spesso appena ti pensano vedo altro che regresso. Finte rese, spinte lese, prese mai la chi niente gli possa mai mancare. Dite che l'amate, accendo le cine prese. In queste rese di voi gentilmente, in questa fossa che si continua ad allargare.